Uno sconto così? Non te l'aspettavi, eh? Dal 21 al 25 febbraio arrivano i Club Days a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet. Meno 20% extra sui saldi di articoli selezionati. Solo per gli iscritti al MacArthur Glen Club. Registrati ora e risparmia alla grande. Ti aspettiamo alla Reggia Designer Outlet. Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. Qualche mese fa mi è capitato tra le mani un piccolo libro con un titolo quantomeno perentorio che in qualche modo ha attratto la mia attenzione. Chiudiamo i canili. Questo libello dei Troglodita Tribe non ci lascia scampo e apre le porte ad un discorso che si sta sicuramente già affrontando anche in modo serio. Noi di Paucracy ci stiamo dentro e non ci tiriamo indietro. Fabio e Lella sono due tipi tosti che non hanno avuto paura di esprimere un disagio che ci coinvolge molti e io sinceramente sono molto felice di aver dato voce a questa breve opera che ci costringe a fare i conti con la realtà del volontariato odierno e a fare i conti con noi stessi. Ascoltiamo l'episodio. Bentornati amici di Paucracy. Come vi avevo già anticipato, qui con noi ci sono Fabio e Lella dei Troglodita Tribe. Benvenuti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, innanzitutto vi chiederei di presentare voi e il vostro operato e come è nata l'idea di questo libello che andiamo a raccontare. Allora, noi siamo da tanti anni attivisti e comunque ultimamente, sempre da tanti anni, scriviamo sulla questione animale. Abbiamo scritto tanti libelli su vari argomenti. Chiaramente siamo antispecisti e vegan. Diciamo che ultimamente più che altro collaboriamo con una radio che si chiama Restiamo Animali, è una trasmissione per la verità, antispecista e vegan, e collaboriamo con loro per quanto riguarda le notizie del mondo animale sulla Sicilia, perché da Milano oramai ci siamo trasferiti in Sicilia, abitiamo qui da qualche anno, perciò quando ci sono delle notizie interessanti, più o meno belle, che trattano appunto gli animali, facciamo un breve racconto, insomma, delle letture, dei consigli, eccetera, e poi la radio li manda in onda un po' in tutta Italia. Una trasmissione che va in onda da 12 anni e si sente un po' a Roma, a Trieste, a Bologna, Milano, insomma, in varie città italiane. E questa è la cosa che stiamo facendo di più ultimamente, oltre naturalmente a scrivere parecchio sulla questione animale. Ultimamente ci stiamo dedicando in particolare ai cani e questo ultimo lavoro si chiama appunto Chiudiamo i canili ed è stato fatto da una casa editrice di Roma, appunto, si chiama Ortica Editrice, che ha una collana dedicata proprio agli animali, alla questione animali, che si chiama Gli Artigli. Per la verità questo testo l'abbiamo scritto e l'abbiamo autoprodotto, poi ci hanno chiamato, ci hanno telefonato chiedendo se potevano farlo loro ed ecco che poi è nato questo libro, anche perché adesso si può trovare in tante librerie e naturalmente anche online. Sì, assolutamente. E Fabio, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che il titolo del libro Chiudiamo Carini è un titolo volutamente e fortemente provocatorio. E quindi sin dall'inizio appunto volevamo dire che noi non è che ce l'abbiamo con chi opera o con i volontari e le volontarie che lavorano nei canili, quanto invece ci rivolgiamo proprio alla struttura stessa, che comunque è una struttura sempre meno accettabile. L'idea è quella, proprio anche attraverso questo titolo così esplicito, di pungolare, di stimolare nuove riflessioni proprio sul concetto di canile. Però perché abbiamo scritto questa cosa? Perché in effetti abbiamo anche un'esperienza di tanti anni proprio di volontari in un canile, ancora quando stavamo nelle Marche, nel centro Italia. Perciò abbiamo fatto i volontari presso un canile, diciamo anche non fra i peggiori, insomma aveva tutto a norma, buon canile, diciamo così. C'erano anche tanti volontari che prestavano la loro opera. Perciò abbiamo, sperimentato per diversi anni proprio che cosa vuol dire vivere in canile, dalla parte dei cani, ma anche come volontari. Perciò era da tanto che pensavamo a una cosa di questo genere, a scrivere qualcosa contro i canili, però non osavamo mai perché non riuscivamo a trovare la via giusta, il modo giusto per raccontare quanto invece questo canile in generale, tutti i canili siano devastanti insomma nei confronti del canile. Perciò l'abbiamo sempre un pochino rimandato, non ci decidevamo mai a scriverlo. Quando finalmente poi ci siamo trasferiti in Sicilia, abbiamo avuto degli incontri anche con i cani liberi, allora abbiamo fatto come dire uno più uno, abbiamo abbiamo pensato che forse era arrivato il momento e perciò abbiamo proprio deciso, facendo riferimento a questa esperienza che abbiamo avuto di tanti anni in questi canili, deciso di scriverlo. Sì, anche perché questo è un libro che nasce proprio dalle domande che abbiamo cominciato a farci praticamente sin dall'inizio, da quando abbiamo cominciato a praticare queste forme di volontariato in maniera abbastanza stabile, duratura in un canile. Cioè noi ci chiedevamo come fosse possibile che una tale ingiustizia, un'ingiustizia così evidente, così potente, fosse accettata in maniera così rassegnata, così universale quasi. E allora ci chiedevamo, ma è sempre stato così? Come è nata questa cosa? Com'è possibile che le persone che dicono anche di amare i cani, che li amano davvero, non si ribellino rispetto proprio ad un concetto, ad una filosofia, ad un'architettura di questo tipo? Perché quando passi tanto tempo dentro un canile non puoi non sentire quel disagio, grido di dolore, quell'ingiustizia, quella prepotenza, quella violenza poi che avviene. È come se noi a un certo punto ci fossimo messi dalla parte del cane, non ci bastava più portare un minimo di conforto, che poi è veramente minimo, non ci bastava più passare tanto tempo, tante ore all'interno del canile. Volevamo, cioè abbiamo deciso proprio di entrare, di vivere insieme ai cani chiusi in questi box. Perciò avendo fatto questo passaggio abbiamo incominciato a vedere il canile dalla parte del cane. Chiaramente non è che ci si riesce al 100%, però ci siamo proprio sforzati di pensare a come si vive dentro un box. Perciò questa cosa, ci siamo allontanati dall'idea di fare il volontario, punto, ma ci siamo proprio sforzati di raccontare e di cercare di capire, di approfondire come si sta in un canile, come sta un cane dentro un canile. E perciò abbiamo spazzato via, e questa cosa, diciamo la verità, l'abbiamo capita meglio quando a un certo punto abbiamo deciso di non andare più a fare il volontario in questi canili, perché ci portavamo appresso il disagio nostro ma anche tutto il disagio di questi cani. Ricordiamo bene, sia io che naturalmente anche Fabio, il dolore di questi cani perché non volevano più rientrare nei box, o dopo la passeggiata, dopo lo sgambamento, oppure mi ricordo benissimo di quanti cani invece non volessero uscire dal box perché terrorizzati, di di questo abbaio continuo, questo sottofondo, di questi cani che continuavano ad abbaiare, cioè un frastuono infernale. Perciò ci portavamo a casa il nostro disagio, ma anche il disagio di tutti questi decine e decine di cani rinchiusi in questo box. E perciò questa cosa, uscendo dal canile, sì, abbandonando il volontariato di quel canile, perché poi appunto ci siamo anche trasferiti, abbiamo ragionato meglio, un po' distaccati, diciamo, e abbiamo cominciato a farci delle domande e cercare anche di darci delle risposte. E da queste domande, è nato il libro. Ma il canile in cui stavate voi, viene da chiedere, era molto grande, c'erano molti... Sì. C'erano più di 300 cani. Mamma mia. Allora, raccoglieva, perché essendo appunto era in provincia di Macerata, raccoglieva diversi paesi, sì, perciò c'erano tanti cani da pastore, tanti cani da caccia che venivano regolarmente portati non appena, cioè, non rendevano più quello che, come era stabilito. Tanti cani di razza, insomma, ce n'erano di tutti i tipi, naturalmente. Certo. Come in tutti i canini. Allora, io vi chiederei intanto di fare un breve cenno storico sulla storia dei canili, per capire insieme come sei arrivato, voi questo l'avete affrontato anche nel libro, e quindi come sei arrivato a stabilire, ovviamente l'uomo l'ha stabilito, che il canile è il posto adatto per i cani. Perché come dite voi, anche il miglior canile è comunque un posto di detenzione, o meglio un carcere. E quindi, se volete aiutarci a fare questo excursus storico. Sì, infatti il libro è proprio suddiviso in varie parti, sì, e diciamo appunto una di queste è proprio, si intitola Il passato, perché proprio dal passato, da come nasce, cioè il canile, che ci si rende conto di che cos'è e anche del perché sia irriformabile poi di fatto. Perché il canile nasce, il concetto, diciamo, l'idea di canile nasce nei primi del Novecento, quando una serie di malattie, soprattutto la rabbia, ma anche diverse altre, si comincia a ragionare sul fatto che i cani possano essere responsabili di queste malattie. E quindi, in maniera molto, diciamo così, blanda e molto drastica, si decide che tutti i cani che vengono trovati sul territorio senza un diretto riferimento umano debbano essere abbattuti, cioè proprio ammazzati. Perciò vengono catturati tutti, vengono portati in questi spazi che ancora non si chiamano canili, e vengono, dopo qualche giorno, vengono abbattuti. Dopo due o tre giorni vengono abbattuti, oppure concessi agli istituti che praticano la vivisezione. Questa cosa va avanti per anni, e soltanto nel 1950 nasce proprio il concetto, proprio la parola stessa, canile, così come noi la intendiamo. Perché prima erano dei locali. Sì, erano dei locali, molto informali. E comunque, per essere un canile, la, diciamo, regola sostanziale è quella di possedere degli idonei impianti di smaltimento dei cadaveri. Questo ci dice tanto, perché ci dice proprio di fatto come nasce il canile, e cioè come campo di sterminio nella realtà dei fatti, perché è proprio questo che spinge noi umani a costruirlo, a inventarlo, a razionalizzarlo, a progettarne gli spazi, le architetture e le motivazioni poi. E questo racconta proprio anche il nostro immaginario legato al cane, perché proprio da questo discorso poi nasce proprio l'idea del canile, della reclusione. Poi chiaramente le cose cambiano, perché vanno avanti così fino al 1991, perché soltanto nel 1991, grazie ad una serie di battaglie, di lotte, di tante persone, di tante associazioni, di tanti gruppi, si arriva finalmente ad abolire questo abominio che è il continuo sterminio del cane, no? e grazie a questa legge poi nascono i famosi canile rifugio, che dovrebbe nella teoria essere un luogo dove i cani stanno per poco tempo, dove transitano fino a che non arriva un'adozione. Dovrebbero essere luoghi dove viene rispettato il benessere animale, dovrebbero, ma nella realtà dei fatti le architetture non cambiano e restano più o meno le stesse, e il concetto stesso di cane che non è trovato, che viene trovato senza un diretto riferimento umano, che deve essere immediatamente catturato e rinchiuso, e in molti casi rimanere lì anche per tutta la vita, resta intatto. Quindi perciò questo... comunque il canile, come lo si intende ancora adesso, è stato pensato comunque per svolgere al meglio e più in fretta le varie operazioni, ma pensando proprio agli addetti, alle persone che lavoravano al canile, per quello che il cane, i vari box hanno una metratura, hanno il cemento, hanno le reti, cioè tutta la struttura è stata pensata per svolgere in fretta e meglio le operazioni che hanno a che fare con la pulizia, poi pensando agli addetti e non certo ai cani, che tanto certo, dovevano essere abbattuti. Certo, ma e questa cosa è rimasta finora. Se voi, insomma, tutti noi, insomma, sbirciamo, no? Un po' i canili, un po' in tutta Italia, ma non solo in tutta Italia, bene o male, sono ancora, la struttura è identica. Più o meno il box magari in certi canili avrà qualche metro in più, magari ci sarà una pianta, magari insomma, però l'idea di fondo è identica. Sì, la psicologia è quella. Allora la domanda è: noi possiamo riformare un campo di sterminio? Con tutta la buona volontà non è possibile. Cioè, quando un'ingiustizia è palese, sì, non possiamo cercare di apportare dei piccoli miglioramenti passo a passo, dobbiamo soltanto chiudere il discorso per aprirne un altro, e questo è poi il concetto che abbiamo cercato di portare avanti con questo libro, che un'ingiustizia non può essere riformata, non può essere sostituita se non con un'altra ingiustizia. Quindi il concetto di base, di fondo, è proprio questo, e ce lo dice proprio la storia del canino, che è soltanto un metodo per togliere dal territorio i cani, perché danno fastidio, perché si pensava fossero pericolosi, portassero malattie. Insomma, è un po' un discorso legato al nostro desiderio di toglierceli dalle scatole. Sì. E non è certo invece dovuto ad un criterio, ad un sentimento, ad una volontà di accoglienza, di soccorso, di aiuto. Di convivenza. Di convivenza. Sì. Infatti, perché chiaramente i cani, noi con i cani abbiamo anche dei problemi di convivenza, però allora qual è la scelta? Insomma, dobbiamo cercare di rimodellare anche le nostre città, i nostri modi di vivere, eccetera, anche in relazione al fatto che ci sono loro, oppure dobbiamo semplicemente catturarli, rinchiuderli e toglierceli dalle scatole, mettendo così la polvere sotto il tappeto? Noi pensiamo che oramai a livello collettivo siamo arrivati, perché insomma l'idea, insomma, è un po' anche antispecista, l'idea che non si tratta soltanto di esseri che non contano in alcun modo, si è un po' diffusa, quindi è anche venuto il momento di ragionare, sì, sul fatto che non è possibile, non è più possibile accettare e dare per scontato una realtà così, così violenta, così coercitiva, così parte dell'universo concentrazionale, delle galere, dei campi di concentramento come è il canile. Questo chiaramente non vuol dire che domani chiudiamo tutti i canili, liberiamo tutti i cani e chi si è visto si è visto. Cioè è un processo, noi dobbiamo affrontare questo cambiamento con nuove idee, nuovi modi, nuovi approcci, nuovi metodi, e abbandonare anche questa idea anche del canile, che è identica a quanti anni? 70, 60 anni fa, sì, è identica. L'unica cosa è che non li ammazzano. Non in Italia. Sì, però, sì, poi in Italia, però, Italia però io vorrei fare, diciamo così, vorrei aggiungere anche una cosa che magari può essere un po' forte, e non è un pensiero mio, ma è anche un pensiero mio. nel senso che se un cane deve vivere in una condizione come quello di alcuni canili, non voglio metterli tutti perché ho visto anche realtà in cui si cerca in qualche modo di fare quello che in teoria sarebbe auspicato, ovvero fare in modo che il cane transiti in quel rifugio nel più breve tempo possibile venga adottato. Se un cane deve vivere nelle condizioni in cui vive in alcuni canili come quello di Roma, perché è così, quello di Muratella, forse non è vita quella, insomma, non si augura la morte, però assolutamente non vedo altra soluzione che non vivere in un modo così, cioè è atroce, è veramente difficile anche accettare certe situazioni. E poi voi comunque nel vostro libro poi ovviamente fate un forte riferimento anche alla depressione che i cani reclusi manifestano all'interno di una vita monotona e dolorosa. Comunque l'uscita viene comunque assimilata, diciamo eguagliata all'ora d'aria che sia in canile. E io devo dire, nonostante io sia volontaria in un rifugio dove si presta molta attenzione, dove ci sono pochissimi cani e questi cani transitano, la maggior parte di questi cani transitano nel più breve tempo possibile e poi vengono adottati velocissimamente, comunque non ho potuto fare altro che visualizzare l'uscita dei cani e poi il rientro, e è stato molto forte per me questo libro, insomma. Ma, e quindi mi chiedo anche sia voi come vi ponete nei confronti di questi rifugi tra virgolette che magari cercano di adottare posizioni un po' più innovative in qualche modo, mettiamola così, e poi mi chiedo anche come è stato accolto il libro a questo punto dai diversi professionisti, se avete avuto dei feedback, dei riscontri, se avete avuto modo di parlarne insomma con persone addette ai lavori che magari lavorano nei canili. Beh, siamo rimasti anche noi un pochino sorpresi, perché comunque è come se avessero detto finalmente che qualcuno l'ha scritto. Che qualcuno l'ha detto. Che qualcuno l'ha detto. Sì. Perché comunque i canili tuttora non si chiudono, se ne continuano ad aprire, casomai. Perciò forse la strada non è quella, perché invece di chiuderne ne apriamo di nuovi, anche nella nostra zona, per esempio fra un po' ne apriranno un altro, uno nuovo, perché i cani sono tanti chiaramente. Perciò il fatto stesso che molti ci dicessero, ci hanno scritto in molti eccetera, dicendo meno male che qualcuno incomincia a dire che il canile bisogna chiuderlo, perciò anche proprio le stesse persone che lavorano in canile, nel canile, perché sappiamo tutti, soprattutto i volontari, a parte quelli che si muovono perché insomma sono mossi più che altro da queste forme un po' di pietismo, ma una persona che conosce i cani, che ha studiato i cani, che tiene veramente a cuore il benessere dei cani, non ne trovo uno che dice ok, il canile va bene, anche fra quelli che sono, non sono considerati i cani lager, perché quello poi tra parentesi è un altro capitolo tristissimo. Cioè, non c'è scampo. Sì, poi su come ci poniamo dipende, nel senso che se la strategia adottata è quella di migliorare, di allargare un pochino i box, di migliorare, è chiaro che non è che non va bene, però sicuramente non è la soluzione, perché assolutamente appunto, come dicevo prima, se noi abbiamo un campo di concentramento, la soluzione non è cercare di rendere la vita migliore agli internati, la soluzione e l'impegno deve essere quello di chiudere il campo di concentramento. Assolutamente. Quindi in questo caso appunto la nostra posizione è quella. Poi ci sono invece delle realtà che veramente stanno lavorando in modo differente, che stanno facendo scardinare proprio il concetto di canile. Adesso, giusto per, facciamo due di esempi che conosciamo, come Riot Dog, in Emilia Romagna e la collina dei cani in Sicilia. Sono delle persone competenti che stanno veramente provando, anzi sono progetti già avviati, sì. Noi conosciamo bene quello della Sicilia, sono progetti già avviati in cui non ci sono... Salta il concetto di canile proprio. Allora questi sono i pionieri, che stanno cercando... con enormi difficoltà, chiaro, chiaramente, anche con dei compromessi, perché per forza. Assolutamente. Costruire un diverso, perché questo poi il concetto, costruire un altro immaginario, non è una riforma, ma è proprio costruire un diverso immaginario, proprio una diversa idea di cane, e quindi di conseguenza una diversa idea di luogo dove accogliere casomai i cani e muoversi in relazione a loro, alle loro esigenze e anche all'interazione umano-animale che può venire a crearsi. Quindi i problemi che poi ci sono, perché i problemi di convivenza ci sono, devono essere risolti tenendo conto di entrambe le esigenze e poi chiaramente anche raggiungendo quei compromessi che per forza si devono raggiungere da entrambe le parti. Quindi, assolutamente. Certo, se... Anche le istituzioni ovviamente dovrebbero, almeno secondo me, cominciare ad inserire persone competenti all'interno del... Sì, quello è un problema. Apri un capitolo che noi comunque non abbiamo nemmeno trattato. No, assolutamente no, lo confermo. Comunque è anche risaputo che ci sono moltissimi volontari preparati, competenti, ma ci sono anche tantissimi volontari che mossi sicuramente dalla buonissima fede fanno anche tanti errori. No, sì, fanno il problema, tanta incompetenza, perciò anche lì. Però è un argomento, come dire, che non ci sentiamo di trattare, di sottolineare. Lo sappiamo però tutti quanti, insomma. Sì, ma l'importanza malamente, l'importanza col cuore in mano, ma molto malamente nel cane. L'importante è anche capire, io sono una volontaria e sto qui e sto parlando con voi come ho fino adesso raccolto informazioni e parlato con altre associazioni, con altre persone che in qualche modo si occupano di cani liberi, cani di quartiere, abbiamo incontrato stray dogs, insomma abbiamo incontrato diversi enti, associazioni, persone. Il problema è capire che a un certo punto anche noi volontari, questo podcast è nato soprattutto perché io da volontaria mi sono chiesta: ok, il volontario è comunque il danno maggiore, no? Quando tu parli con... Vi faccio un esempio, magari vai a un seminario di Minunno, ok? E praticamente senti, comunque la prima cosa che senti: questa volontaria ha messo la mano in modo sbagliato, ha agito col cane in modo sbagliato. La prima cosa che mi sono chiesta io è stata: ok, io ho, grazie al cielo, ho ricevuto una formazione e tantissime informazioni e ho avuto modo di prendere il libro, prendere internet, ascoltare seminari negli ultimi anni, come tantissimi altri volontari hanno fatto. Però c'è forse una carenza di formazione e informazione per quanto riguarda i volontari, quindi c'è sicuramente una presa d'atto per cui a un certo punto dobbiamo cominciare a occuparci anche dei volontari, perché gli addetti ai lavori sono importantissimi e sono assolutamente necessari, le persone, gli istruttori cinofili, gli educatori cinofili sono necessari, ma io credo che i volontari in qualche modo vadano formati e informati e forse questa potrebbe essere, questo potrebbe essere un piccolo passo, che poi ovviamente è difficile, nel senso che credo che un canile con 300 cani abbia pochissimo tempo da dedicare alla formazione, sicuramente, rispetto... Bene. Diciamo che comunque il libro che abbiamo scritto non tratta, no, e non è contro i volontari. No, no, assolutamente. Ci sono moltissime persone in gamba che lavorano veramente con coscienza e con competenze. Cioè, no, infatti, per questo l'ho voluto. Però non è, cioè, casomai il libro è contro il concetto, l'immaginario, sì, del canile, sì, più che contro le persone che lavorano o fanno i volontari nel canile. Questo assolutamente, ci teniamo, insomma, assolutamente, a sottolinearlo. Poi è verissimo che comunque sono pochissimi i canili che si possono permettere di avere delle persone competenti, sì, che formano, sì, perché è impossibile, e anche questo è un altro motivo in più per dire che il canile va chiuso. Assolutamente, perché se ne assolutamente ha nel quale, o comunque se lavori in un canile o fai il volontario in un canile senza essere formato, è normale che tu faccia dei danni. Assolutamente. E che tu non riesca a migliorare, ad avere un rapporto, un legame con questi cani, a favorire la vita di questi cani. Mm-hmm. Questo è normale, cioè è una conseguenza. Perciò insistiamo perché il canile venga chiuso, ma più che altro perché venga abolito questo immaginario che ci permette di accettare l'idea del canile. E perché accettiamo l'idea del canile? Perché ci sono altre cose che vengono prima, come per esempio gli allevamenti. Gli allevamenti, ce ne sono due o tre. Partiamo dagli allevamenti? Sì. Cosa fanno gli allevamenti? Vabbè, lo sappiamo tutti, gli allevamenti vendono i cani. Trattano il cane come se fosse una merce, perché tutto ciò che si compra e si vende è merce. Sì. Allora cosa succede? Da una parte ci sono gli allevamenti che immettono continuamente sul mercato nuova merce, quindi invogliano all'acquisto, perché il loro scopo è quello di vendere. E quindi chiunque, senza poi sostanzialmente alcun filtro. Dall'altra parte, quando la merce è stanca, perché di fatto la merce ad un certo punto è progettata proprio per dare delle emozioni o per dare un'utilità, quando questa utilità o questa emozione viene meno perché arriva altra merce, l'oggetto in questione deve essere rottamato, deve essere sostituito con uno nuovo, e quindi i canili entrano in ballo proprio in questo modo, proprio a raccogliere tutta la merce scartata. A questo punto si capisce bene anche come canili e allevamenti siano connessi tra di loro in qualche modo. Sembrano due mondi lontani, ma sono assolutamente collegati, perché senza canili, cioè questi luoghi dove stoccare tutta questa merce rifiutata, non sarebbe possibile continuare a immettere sul mercato sempre nuovi cani, diventerebbe demenziale, ingestibile la situazione. Perciò è questo l'immaginario, questo cambiare questo concetto del cane merce che viene comprato e venduto dovrebbe essere proprio l'obiettivo fondamentale di qualunque persona che si occupa di cani, che ha a cuore il mondo dei cani, che si muove anche all'interno dei canili, che fa volontariato. Chiaramente non è la singola persona che può combattere questa battaglia, ma deve essere un intero movimento, intero movimento che però invece purtroppo stenta a perseguire questo obiettivo, stenta a mettere veramente in crisi questo concetto che poi è la base fondamentale poi dell'esistenza dei canili, la base fondamentale di tutti gli errori che stiamo facendo e che abbiamo fatto nei confronti di cani, e di come anche li stiamo trasformando poi, perché li stiamo trasformando in oggetti, in pezzi, in figliolini, in oggetti che hanno sempre meno a che fare con i cani. Perciò abolire, boicottare l'acquisto di cani di razza degli allevamenti è il primo passo per avvicinarci sempre di più all'abolizione del canile. Essere consapevoli di questo meccanismo è che anche quando noi facciamo volontariato con le migliori intenzioni possibili, stiamo alimentando questo meccanismo. Purtroppo questa è una realtà, è una realtà di fatto, perché è come dire il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Cioè, entrambi però poi alla fine hanno lo stesso, sono all'interno di uno stesso circolo, di uno stesso sistema. Sì, perché comunque poi spesse volte il cane di razza, appunto, che è stato fatto nascere in questi allevamenti spesse volte è sponsorizzato dalla società dello spettacolo, il ballo sportivo, il cantante, il politico compra questo cane merce e alimenta il mercato di quella razza, perciò tantissime altre persone vorranno assomigliare a quel cantante, a quel politico, a quel calciatore, comprando, acquistando da un allevatore questo cane, che poi quando finirà il periodo del cane di razza, che sia un pastore tedesco, che sia un dalmata, che sia una razza che vuoi tu, se ne disfa, perché è passato di moda. E non è un caso che nei canili ci siano tantissimi cani di razza, perché ormai non sono più di moda. Perciò il primo passo più importante è il boicottaggio dei cani considerati merci, che vengono continuamente sfornati da tutti gli allevamenti. Questa è la prima cosa, e dovrebbe essere una lotta che dovrebbero avere quasi tutti i volontari o quasi tutte le persone che si occupano di cani e che tengono veramente alla infatti poi spesso si tende a dire ma non c'è tempo per queste cose perché siamo in emergenza eccetera, ma questa è un'emergenza ancora maggiore, perché come se noi abbiamo la stanza che si allaga, dice, dobbiamo con la bacinella togliere tutta l'acqua, invece di andare a cercare il tubo da dove esce l'acqua e tappare. Cioè, è certo. Proprio quello il concetto. L'emergenza invece è proprio quella, è fare in modo che un intero movimento si muova contro il concetto di cane che si compra e si vende, che è una merce. E siamo oramai al punto, dovremmo essere, perché insomma questa consapevolezza comincia ad aumentare, insomma. Perciò si dovrebbe in qualche modo, ci si dovrebbe muovere in questa direzione. Anche in questa direzione. Diciamo che l'informazione dovrebbe arrivare a tutti, cioè nel senso la popolazione dovrebbe essere sensibilizzata forse di più. Non dovrebbero più esistere magari gare di bellezza, queste gare perlomeno dovremmo boicottarle in maniera più accesa, attiva. Decisa, okay. Attiva, decisa, infatti. Attiva, sì. E poi anche boicottare questi atteggiamenti pietistici oppure del cane bambino, del cane figlio, sì. del cagnolino pet da trasportare, perché anche questa infantilizzazione del cane è un modo per ridurlo sempre di più, perché un cane è vero che quando è cucciolo è come un bambino, ma crescendo diventa un individuo adulto. Diventa un individuo. E se viene trattato ancora il mio bambino, ecco che noi lo stiamo svilendo, stiamo riducendo notevolmente la sua dignità e la sua esistenza. Infatti moltissimi di questi cani sono diventati dei cani giocattolo, cioè il più delle volte poi sfuggono, questi giocattoli si rompono, non ubbidiscono, sporcano, abbaiano, mordono e di conseguenza se ne facciamo in fretta fanno i cani, fanno i cani. Si creano dei disagi molto profondi fra chi ha comprato questo cane che pensava fosse un giocattolo e anche questi cani che vengono trattati come dei giocattoli, sono dei toy, perché poi li chiamano così, cani toy, vanno a finire nei canili perché non sono in grado di gestire, di vivere, di convivere, di accettare, di far partire un legame sincero e vero con questo animale, con questo cane. E perciò li abbandoniamo, li lasciamo nei canili e anche questa è un'altra. Li trasformiamo. Li trasformiamo in oggetti. Ma tornando poi, di ai canili, anche quest'idea che oramai sta montando a mille, che il cane è diventato un giocattolo che deve comunque sempre obbedire, scattare, rispondere a tutte le nostre richieste, stare zitto, insomma fare tutte le cose che vogliamo noi, e il cane deve obbedire, deve fare quello che diciamo noi, che pensiamo che debba fare queste cani, e chiaramente nascono dei disagi, nascono delle incomprensioni, incominciano insomma a partire, il cane perde il suo stato di cane e la persona se ne vuole liberare, e dove va a finire? Il canile, chiaramente. Perciò anche l'idea di boicottare questa idea del cane giocattolo è un altro passo per avvicinarci sempre di più all'abolizione del canile, perché è tutto boicottare molto anche attraverso le parole, boicottare il termine padrone, per esempio, anche questo è dovrebbe essere una battaglia importante, perché il padrone è chiaramente, cioè usare la parola padrone già dice tutto di cosa pensiamo del cane e di come il nostro immaginario è legato al cane. E questo è davvero importante, perché se abbiamo invece un rapporto con un individuo, ecco che cambia tutto. Certo. Assolutamente. E poi ci sono le staffette, come vi ponete in merito a quelle? Infatti staffette, abbiamo sì. visto voi adesso che vi trovate in Sicilia, soprattutto stando qua, abbiamo avuto modo sì di renderci conto del disastro devastante di queste migrazioni dei cani deportati dal sud al nord, e queste staffette, cioè. Ma c'è stata un'inchiesta anche di Ciao Zé, che ha fatto vedere cose e lui purtroppo ha smesso, perché era l'unico che trasportava in maniera decente diciamo, al i cani, al meglio. Sì, me lo ricordo. Sì, con un furgone proprio perfetto. E poi una persona che conosceva i cani profondamente. Il problema della staffetta è che il cane arriva in una famiglia, magari viene prelevato dal territorio o magari da un altro rifugio, dal sud, eccetera, e va in casa di qualcuno che non conosce assolutamente, e magari viene catapultato da una realtà di campagna o di vita libera o semilibera, e si ritrova all'interno di un appartamento. Il proprietario si rende conto, dopo aver conosciuto il cane, che non fa per lui, che non c'è modo di entrare in connessione con questo cane, perché non è appunto un gioco, ma è un individuo che sta manifestando il suo disagio, e quindi anche lui, il cane, torna in canile. Noi poi vediamo tantissimi cani nelle nostre zone che scappano anche subito dopo essere arrivati nelle case, portati magari dalle staffette. Alcuni non sono arrivati neanche nelle case, sono scappati prima, insomma. È veramente un grande disagio. Un altro problema importante. Sì. È sempre legato alla nostra idea estremamente superficiale, al nostro immaginario estremamente, insomma, sballato rispetto alla realtà, rispetto al cane, cioè che si debba comunque agire nei confronti del cane in modo standardizzato. Cioè io vedo un cane appunto libero, insomma, sul territorio, io lo devo semplicemente catturare, non devo chiedermi che cosa sta succedendo, perché si trova in questa situazione, se è in difficoltà, se non è in difficoltà, da dove viene, come posso rapportarmi con questo, cioè non si fanno questi ragionamenti. Perché? No. Perché non siamo ancora arrivati fino in fondo a capire che siamo di fronte a degli individui. Ma... e ogni individuo si trova in una situazione differente da un altro. Quindi l'idea è quella proprio, siccome i cani in Sicilia ci sono, i cani liberi ci sono, allora catturiamoli tutti e mandiamoli al nord. Cioè questo poi è il in canile, concetto. Perché poi... perché poi non se li prendono i proprietari. No, infatti noi tra l'altro quando siamo stati, abbiamo fatto i nostri anni di volontariato nelle Marche, a un certo punto abbiamo cominciato a chiederci come mai regolarmente ci fossero dei cani che terrorizzati, che non uscivano mai dai box, che non volevano uscire. A un certo punto abbiamo detto, ma che storia hanno questi cani? All'inizio ci dicevano, ma si vede che li hanno picchiati, si vede. Sì, in realtà, andando poi ad indagare dove era possibile, si scopriva che nella stragrande maggioranza dei casi erano cani che venivano dal sud Italia o dalla Sicilia, molti, molti dalla Sicilia. Ed erano cani liberi, erano cani che poi sono impossibili da adottare, che dovevano essere lasciati in pace. Assolutamente. Che finiranno la loro vita proprio. E questi sono i famosi danni fatti da persone anche in buona fede, da volontari in buona fede, che però non hanno avuto nessun tipo di formazione, che non si preoccupano di aggiornarsi, di capire ci vuole anche un po' di quello che sta accadendo. Anche un po' di curiosità, vedere, guardarsi intorno, cercare di approfondire, non buttarsi così perché ti fa pena, oddio, poverino, adesso va sotto una macchina, insomma, bisogna avere anche quel minimo di curiosità e quel minimo di attenzione, poi, insomma, vedere cosa succede, cioè, questi atteggiamenti e queste situazioni se ne vedono parecchie ancora adesso. Sì, assolutamente sì. Cioè non è una roba vecchia, funziona ancora adesso benissimo, tra parentesi. Sono molto più preoccupati di togliere il cane da dove l'hanno visto che della fine che farà questo cane alla fine. Sì, è vero. La loro preoccupazione è quella, raccoglierlo, catturarlo e poi... Quindi portarlo a canile. Sempre quello, chiudiamo i canili significa soprattutto non tanto o non soltanto appunto chiudere le strutture, eliminare le strutture, ma soprattutto cambiare un immaginario, sì, così ancora radicato che noi abbiamo nei confronti del cane. Questo immaginario poi, che attenzione, è un immaginario soprattutto occidentale, quello del cane pet, del cane, insomma, da divano. Perché in realtà, poi dati alla mano, noi sappiamo che l'80% dei cani del mondo invece vive in libertà o in semilibertà, quindi è una piccola parte, non siamo ancora riusciti a trasformarli tutti, e questo ci dà anche l'idea, no, di quanti errori si stanno facendo. Perché comunque stiamo perdendo il cane. Sì. Il cane ci abbandonerà. Sarà lui ad abbandonare il mondo, non c'è problema. Ci abbandonerà. Perché lo stiamo letteralmente trasformando, gli stiamo impedendo di confrontarsi con i suoi simili, lo stiamo trattenendo nelle sue pulsioni fondamentali, li teniamo chiusi dietro a un cancello per una vita intera, li lasciamo nei giardini, li lasciamo in casa anche 10 ore al giorno, che non possono neanche abbaiare, perché poi nel condominio danno fastidio e creano problemi. Cioè, li stiamo letteralmente trasformando, e non a caso poi le problematiche maggiori che si riscontrano sono tra i cani dei cosiddetti da appartamento, padronali, eccetera, i più grossi, i più gravi problemi poi comportamentali. E questo poi si ripercuote anche sul cane, chiamiamolo come l'abbiamo chiamato fino adesso, il cane libero, perché poi ci spiazza nel momento in cui incontriamo, soprattutto poi al sud, un cane libero, non siamo abituati, ci fanno paura, perché noi abbiamo quest'idea, ormai abbiamo così interiorizzato quest'idea del cane ubbidiente, sottomesso, che fa esattamente tutto quello che diciamo, che risponde, ci porta la pallina, eccetera, che non siamo, ci spiazza. Cosa succede? Sono pericolosi questi cani liberi, questi cani liberi, perché il cane che conosciamo noi è un cane giocattolo, è un cane merce, è un cane figlio, e questo andrà a riflettersi proprio sulla sopravvivenza del cane libero, perché non ce l'aspettiamo, non lo vogliamo, non lo conosciamo. In verità sono loro i cani veri e non questi che noi abbiamo mai trasformato e stiamo trasformando minuto per minuto. Vero, è vero. Quindi, per concludere insieme, lo vedete un futuro per i cani liberi e un canile che non c'è più? Scusa, lo vediamo un futuro? Un futuro per i cani liberi e un canile che non c'è più, quindi un canile chiuso. Ah, un canile che non c'è più. Il futuro è, cioè, stando adesso come stanno le cose e come si stanno muovendo, il futuro che vediamo, infatti, anche nel libro, d'altronde, abbiamo le ultime due parti del libro, appunto, si intitolano Il futuro verso l'utopia e Il futuro verso la distopia. Perché verso l'utopia è riuscire ad intaccare questo immaginario, e quindi è un po' una cosa che abbiamo in mano tutti, perché dobbiamo, insomma, boicottare la parola padrone, dobbiamo riuscire a dare più spazio ai nostri cani, ai cani che vivono con noi. Però la cosa che si vede più incombere invece è proprio la distopia, è proprio questo cane merce che imperversa. Infatti nel libro lo introduciamo come un racconto distopico, sì, dove appunto questa Canis International brevetta questo cane elettronico che poi di fatto andrà a sostituire totalmente, e non ha il cane vero, e non a caso gli ultimi, insomma, resistenti sono i cani liberi, che hanno mantenuto e che faticano a sopravvivere, perché il rispetto, perché il vero nemico a questo punto è proprio questo immaginario, questo incombente, asfissiante idea che il cane deve essere in un certo modo, deve essere esattamente così come noi lo vogliamo che sia, esattamente, deve esattamente rispondere a quelle che sono le nostre esigenze. Quindi è sempre più difficile, sempre più pesante. E poi il tempo è quello che è. Non è che dici piano piano cambieremo, non è così. Purtroppo anche lo spazio vitale sta diminuendo anche per questi cani liberi, perché comunque costruiamo in continuazione, abbattiamo continuamente le zone selvatiche, il traffico, le macchine, i rumori, i diserbanti, insomma questa distruzione li condanna in un certo senso a ritirarsi sempre di più, unito poi a questo immaginario che ha ben descritto Fabio. È chiaro che avranno anche loro molte difficoltà a sopravvivere. Certo, cioè si adattano fortemente, certo, intendiamoci, anche nelle città. Si adattano. Però sta anche a noi, insomma, loro sono venuti incontro a noi in tutto e per tutto, perché se stiamo a vedere chi ha fatto più sforzi anche a comprendere il nostro linguaggio sono loro. Perché se noi pensiamo che la stragrande maggioranza di noi umani non conosce il linguaggio dei cani, ci limitiamo proprio a sapere che quando ringhia è arrabbiato e quando fa andare la coda è contento, ma di più, qualche passo in più non lo facciamo. Cioè ci sono degli individui che vivono insieme a noi da millenni e non ci si preoccupa di veramente studiare il linguaggio di questi individui. Cioè andiamo a scuola a imparare l'inglese, ma studiare un minimo il linguaggio dei cani dovrebbe essere una cosa talmente normale da insegnare a scuola proprio. Assolutamente, sì. E invece questo non avviene. Di fatto noi diamo per scontato di conoscere i cani, quando invece poi non è così. Oppure li interpretiamo in modo fantasioso, molto spesso. Dando loro dei, diciamo così, quando incontriamo un cane vero, che è un cane vero e uno libero, abbiamo paura. Abbiamo paura nonostante tutti i segnali che ci dà, che dovrebbero in qualche modo farci capire che intenzioni ha, eccetera, ma non abbiamo paura e li condanniamo, li esasperiamo, non li vogliamo, in poche parole. Preferiamo oramai questo cane che è diventato un cane toy, un cane giocattolo. Cioè, e invece voi abbiamo questa vena distopica e un po' pessimista, però dall'altra c'è anche questa speranza, perché insomma anche a livello globale di rapporto con gli animali eccetera vediamo comunque che c'è una certa sensibilità che si sta espandendo, allargando, quindi non lo so. Sì, c'è tanta gente fortunatamente che si sta muovendo bene, che spiega meglio nei dettagli insomma di che cos'è il cane. Questo insomma fino a qualche anno fa non c'era ultimamente invece c'è tanta gente che si dedica proprio a migliorare il nostro rapporto con i cani, perciò su queste persone possiamo contarci, però dobbiamo fare in modo che ognuno di noi faccia la sua piccola parte, il suo piccolo sforzo per capirle di più, per studiare di più, per avere più curiosità nei loro confronti e magari meno pietismo, meno cuoricini. Cioè anche un po' studiare un po' di più, informarsi un po' di più. Grande. E smontare questo immaginario che è granitico, questo immaginario che è veramente asfissiante, nei nostri, proprio anche per noi stessi, diciamo. Perciò smontare questa idea del canile passa anche attraverso lo smontare questo immaginario che è molto collegato all'allevamento, l'abbiamo detto, alla parola padrone, l'abbiamo detto, al cane giocattolo, cane figlio, l'abbiamo detto, che non sono i nostri figli, sono i nostri amici, sono i nostri conviventi, sono i nostri compagni di vita, ma non sono i nostri figli. Perché hanno, anche per il solo fatto che loro hanno avuto i loro genitori, e noi non possiamo diventare i loro genitori, anche perché noi i nostri figli non li trattiamo come i cani, sarebbe folle, no? Sia trattare i cani come figli, ma sia trattare i figli umani come cani, cioè sarebbe demenziale quantomeno. Perciò questo libro che si chiama Chiudiamo i canili, come dire, riuscirà a smontare questo immaginario proprio facendo, avviando questo processo. Non è solo chiudere il canile proprio col perché smonti il cancello, cioè smonti questo immaginario. Noi dobbiamo lottare contro, cambiare più che lottare contro questo immaginario, e soprattutto boicottaggio assoluto verso gli allevamenti, che sono il primo vero grande scoglio, che è collegato alla moda, che è collegato al cane merce. Finché non facciamo questo, sarà complicato chiudere davvero i canili. Assolutamente. Allora ragazzi, io vi ringrazio perché siete stati molto preziosi e c'è stato, secondo me, insomma, c'è stata possibilità di dare comunque spazio a questo libro, almeno spero che ci sia stato, insomma, che secondo me è stato molto coraggioso e però anche abbastanza necessario. E io volevo dirvi che raccontarvi un piccolo, diciamo così, aneddoto mio personale. E fino a qualche anno fa, quando incontravo un cane libero, anch'io provavo molta paura. Adesso, se mi capita di incontrare un cane libero nelle campagne, eccetera, eccetera, non la sento più quella paura, quindi può darsi che qualcosa, insomma, sia, anzi, in qualche modo comincio a provare una forma di rispetto per questi cani che riescono a vivere la loro vita nel migliore modo possibile. Quindi è sicuramente un'utopia quella di chiudere tutti i canili, però forse alcuni canili andrebbero chiusi al più presto, e mi sento di dirlo apertamente, insomma, il canile di Muratella andrebbe, se mai ci fosse qualcuno che ci invita a picconarlo, io sarei lì tra i primi proprio. E spero che ci siate anche voi. E, detto questo, prima che ci chiudano tutti i ponti, e io vi ringrazio ancora, Fabio e Lella, siete stati molto preziosi, spero di avervi di nuovo a Pocrasi, e vi auguro buona serata e una buona fortuna per tutto. Benissimo, grazie a te. Grazie a te. Chiudiamo i canili, Ortica Edizioni, in tutte le librerie e anche online. Però se lo comprate nelle librerie è sempre meglio, giusto? Va bene, ok. Poi è una casa editrice proprio romana, di conseguenza è ancora più facile. Perfetto, quindi sarà più facile reperirlo qui intorno. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Ciao. Bene amici, per questo episodio è tutto. Ringraziamo ancora Fabio e Lella per questo intenso e appassionato intervento. Ma prima di lasciarvi, vi ricordo che Pocrasi fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la Radio Geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/pocrasy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a pocrasypodcast@gmail.com. Da me, Michela De Paola, è tutto. Ciao, al prossimo episodio e che la rivoluzione abbia inizio!